Pinnu paesi modo speciali, statene nella regge, te la sta accanto un umone, lo ribellino, lo Federico e la Barbara. Sienti la buona, siamo vagnuni? Amo tu paesi e tutto che sta intorno, lo pensiero suo sempre più profondo, le sue tradizioni, perfino i problemi, ma è tutto questo che ne fa di stare buoni. Amo tu paesi e tutto che sta intorno, lo pensiero suo sempre più profondo, le sue tradizioni, perfino i problemi, ma è tutto questo che ne fa di stare buoni. Ogni cosa che stai è subito ufficiale, quando la vedi non la puoi più scordare. A Bascia Maruggio e Don Caro e vivimo tutto do Salentino e mangiare il genuino. Tenimo tradizioni vecchi come pietra, del tuo paese son tu io un profeta. I nostri sapori sono conosciuti all'altro parti e pillo reggae, siamo tutti pacci. Appena mi oso sento l'aria come fresca, faccio un respiro che dai alla testa, che si di casa a tutti i lori, e senti sprigionar forti su calori. Nu saluto vai agli nostri mestri che creano sempre porti e finestri. Uno speciale all'amico Severino, da quando sta grida capisci che è mattino. Mezza la chiazza punto di socialità, ogni cristiano la sera sacchiata. Tra le sezioni a parlare o picchia fatia, questa è di Maruggio la filosofia. Tu paesi è proprio proprio bello, ogni pista te flippa il cervello. Non c'è cosa che te faci stare meglio, quando mi lontano subito voglio avvegno. Amo tu paesi e tutto che sta intorno, lo pensiero suo sempre più profondo, le sue tradizioni perfino i problemi, ma è tutto questo che ne fa di stare buoni. Amo su paesi e tutto che sta intorno, lo pensiero suo sempre più profondo, le sue tradizioni perfino i problemi, ma è tutto questo che ne fa di stare buoni. Settimane lunghe tutti ama ci fa diari, c'entra la merda all'ilva o in casotta soli fuori. Ci non ti piace puoi buttarlo sangue a militari, nessuno qua regala si lo pane da sudare. Arrivata la domenica spicciata la patia, ti la chiesa al documento senti suona a mezzadia. Do suono di campane si compagna con l'ardori, ti cucina tocca dentro le case e si da fuori. Tu bell'ardori non li lascia le campane soli, sopra le banche che ne di pette di bracioli. Arrivata l'ora tutti in casa che nessuno è fessa, le pizzeria di cinca sia don cadene la sa. Lassamo lo mangiare che la panza non mantene, annanzi mo tiramo con cultura e tradizione. Non so come una volta che ne stiamo di pensione, grazie alle vizi modi e alla globalizzazione. A Natale per esempio lo bambino si scarfava con le fuochi di Cristo piccino e cinca si abbabbava. Mo per l'effetto serra di lookout un c'è come erica lo fuoco. Fuego brucia modo basto un ustito fracere. Lo tempo sa ci passa e non ci torna a reto filo. Stamo con le piede in terra e non piamo modo velo. Rispetto a cinque questi usanzi buoni dell'assati, invece tretti tretti con li distruggimo ma arrivati. Amo tu paesi e tutto che sta intorno, lo pensiero suo sempre più profondo, le sue tradizioni perfino i problemi, ma è tutto questo che ne fa di stare buoni. Amo tu paesi e tutto tu che sta intorno, lo pensiero suo sempre più profondo, le sue tradizioni perfino i problemi, ma è tutto questo che ne fa di stare buoni. Citti citti non voglio un picca di partiti con silenzio sulla faccia vagnone che sta canta qua a miento. Assicci sentiti cudu che sta penso calo corinato su paesi e in fermento. Mi ricordo bene il primo giorno che già venuta e dopo 80 anni e ricordi non sono mai stufa. Questa realtà mi sento d'essere posseduta, con l'anima sua terrona che entra mi sa brucia. Passere entra su posto tutta la mia vita, c'è così tanto mai ma già divertuta. Insieme gli frati miei sentimo lo reggae a rota, e quando lo disco spiccia lo intimo un'altra volta. Sì, però rebel sound sono la realtà, e la loro musica mai aspiccia. Illustra dici una carosa monia qua, senti sti bagnoni e tutto cambierà. Amo tu paesi e tutto che sta intorno, lo pensiero suo sempre più profondo, le sue tradizioni perfino i problemi, ma è tutto questo che ne fa di stare buoni. Amo molto paesi e tutto che sta intorno. Lo pensiero suo ha sempre più profondo, le sue tradizioni, perfino i problemi. Ma è tutto questo che ne fa stare bene.